GR Europa. I believe strongly that Hezbollah behaves like a terrorist organization, therefore should be classified as such. This is an organization. Quella che sentite è la voce di Charles Tannock, europarlamentare britannico. La Gran Bretagna ha presentato una richiesta formale per inserire Hezbollah, il partito di Dio libanese, nella lista nera del terrorismo. La questione sarà discussa ufficialmente all'inizio di giugno e i tempi potrebbero essere maturi. Inserirli nella lista nera vuol dire non avere relazioni politiche con loro. È una decisione difficile, prosegue Tannock, ma fino a quando appoggeranno Assad dobbiamo agire e difendere i nostri valori, in primo luogo democrazia e diritti umani. Ieri i ministri degli esteri europei hanno deciso di sospendere l'embargo sulla vendita di armi alla Siria per aiutare i ribelli, ma ha specificato Catherine Ashton, alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione, nessuno invierà armi ai ribelli, almeno fino ad agosto. Prove di Stati Uniti d'Europa nelle prossime europee, rendendo più europeo il voto del 2014 e combattendo l'assenteismo, chiedendo ai partiti di non chiudersi nei recinti nazionali, lanciando un appello a tutti i media di trattare le elezioni con la massima attenzione. È una sorta di decalogo e di appello per la promozione del voto europeo, la risoluzione non legislativa preparata dai Lib Dem, guidati dal britannico Andrew Duff, e approvata oggi a larghissima maggioranza dalla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Oggi è stato pubblicato il rapporto annuale dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicomanie. I dati sono molti, uno emerge: la cannabis resta la droga illegale più consumata in Europa. Sono 77 milioni le persone che ne hanno fatto uso almeno una volta e sono almeno 3 milioni gli europei che dichiarano di farne un uso quotidiano o quasi. Oltre due terzi di loro hanno tra i 15 e i 34 anni. Occorre un'ulteriore accelerazione per utilizzare entro il 2015 i circa 31 miliardi di fondi comunitari ancora disponibili, è quanto ha detto oggi il commissario UE alle politiche regionali Johannes Hahn nel corso di un incontro con il ministro italiano per la coesione territoriale Carlo Trigilia. Vi ricordo che l'intervista integrale ad Hahn potete trovarla sul sito di radio24.it. Per GR Europa è tutto, l'appuntamento per domani. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.